La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, 16:32 primi, anzi 33 tra 5 secondi, in diretta qui da Milano, grazie per l'ascolto, in diretta in podcast, vi ricordo l'indirizzo della versione di Oscar, @radio24.it, un abbraccio all'ascoltatore che ha mandato già un sms al 3492386666 per Sebastiano Brisoni con Focus Economia dopo, e condivido la sua opinione perché l'ascoltatore dice che ritiene una cosa vergognosa come Consob abbia vigilato e dato le autorizzazioni sull'operazione Saipem. Sono d'accordo, ma sono in minoranza rispetto al fatto che qua tutti tutelano i regolatori bancari dei mercati finanziari in Italia, Consob, Banca d'Italia. Per chi mi segue nelle trasmissioni sa che io sono di opinione diversa rispetto a questa colossale copertura, operazione di insabbiamento istituzionale che è in corso dalla parte della politica nei confronti della responsabilità. Chiusa parentesi, ma solo per dare un abbraccio a distanza a questo ascoltatore, e vi dico subito di che cosa parliamo oggi. Io sarei curioso che mi chiamaste oggi all'800 24 00 24 se siete proprietari, in particolare ovviamente delle Volkswagen, perché torniamo sulla questione delle emissioni interessate dalla truffa sulle emissioni sui motori 1.6 e 2.000 diesel. In particolare però voi, ma non solo voi, perché mi rivolgo a tutti gli ascoltatori che nell'ultimo decennio hanno, tra virgolette, creduto, come era giusto fare, agli inviti che venivano a noi tutti a rinnovare, a effettuare una sostituzione del parco macchine in Italia, che effettivamente in Italia ha una anzianità media molto più elevata che in altri paesi europei, ma il problema è che nel frattempo abbiamo perso un bel po' di reddito disponibile pro capite, e questo contribuisce a spiegare le voragini in cui era finito il mercato dell'auto prima della ripresa, che dall'anno scorso fino all'ultimo dato di gennaio è a doppia cifra ed è in rafforzamento. Però molti ci hanno invitato nel tempo a comprare auto nuovo, appunto perché le emissioni delle auto diminuivano, si passava sui diesel agli standard da Euro 3, Euro 4, poi Euro 5, poi Euro 6, e quindi in questo modo tutti contribuivamo alla soluzione della necessità di contenere le emissioni, il PM10, il CO2, eccetera eccetera eccetera. Perché vorrei che mi chiamaste? Perché è la terza trasmissione che dedichiamo da ottobre al tema dello scandalo, della truffa esplosa grazie agli Stati Uniti e ai controlli negli Stati Uniti, ai dubbi degli statunitensi su in particolare quei due tipi di motore diesel Volkswagen. Ce ne occupiamo all'inizio per spiegare il fatto che i limiti delle emissioni sono asimmetrici, cioè in Europa quelli sugli ossidi di azoto collegati ai diesel sono molto più ampi e tollerati rispetto a quelli di CO2, è esattamente l'opposto avviene invece negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno una percentuale di mercato dell'auto con il diesel, propulsione diesel infinitesima, cioè stiamo parlando dell'1%, da noi ci sono mercati nazionali in cui il diesel supera il 50%. E quella fu la prima trasmissione. Nella seconda, di fronte al fatto che regolatori americani, in particolare quello della California, si aspetta la pronunzia invece del regolatore federale l'EPA nei confronti della Volkswagen, però intanto quello della California ha respinto l'offerta che è venuta dalla California di come riparare al danno, facciamo un'ulteriore puntata in cui entriamo nel merito e almeno io esposi la mia tesi. La mia tesi era che da decenni i regolatori e la politica in Europa in particolare erano conniventi e perfettamente consapevoli del fatto che con quei test fatti al banco e da parte dei produttori si avvaloravano emissioni assolutamente menzogniere rispetto a quelle reali e su strada dei motori A, B, e che il progressivo alzarsi nel tempo di livelli più bassi di emissioni, cioè il passaggio appunto dai modelli Euro 4, Euro 5, Euro 6, finanziato con circa 15 miliardi di euro in Europa, non in Italia, meno in Italia, noi i bonus li abbiamo dismessi, però in Europa grandi paesi come la Germania e la Francia hanno continuato a foraggiare con incentivi all'acquisto di vetture con propulsioni a minori emissioni i produttori. Ecco che questo secondo meccanismo sulle spalle dei contribuenti era viziato dal fatto che si sapeva benissimo che quei maggiori standard ambientali, cioè minori emissioni, erano a propria volta truccate, e quindi era un fenomeno di sostegno al mercato per farci comprare tutti di più, benissimo, difendevamo così l'occupazione e davamo un bel po' di soldi anche ai produttori in più, ma in realtà per una cosa che il mio sospetto era palesemente minata da un meccanismo di collusione tra politica e regolatori europei e produttori. All'epoca era un sospetto. Ieri, ecco il dato di fatto da cui partire, la conferma. Che cosa avviene ieri? Che l'Europarlamento, mentre ancora stiamo aspettando di capire le sanzioni americane alla Volkswagen, possono essere molti miliardi di dollari, lo abbiamo spiegato più volte, ecco che improvvisamente l'Europarlamento ieri adotta a maggioranza una decisione che alcuni considereranno realistica, proprio alla luce di quello che ho detto. Io considero abbastanza scandalosa invece, perché che cosa ha fatto l'Europarlamento? Ha raddoppiato i limiti di emissione. Li ha raddoppiati. Cioè è la piena conferma che la politica e i regolatori hanno sempre saputo che le emissioni che si facevano certificare dai produttori al banco erano una frottola e che tutti quindi i programmi di sostegno agli acquisti per diminuire le emissioni non erano nient'altro che aiuti pubblici per far andare il mercato a un ritmo più veloce di quanto non andasse naturalmente. Era il momento adesso di assumere una decisione di questo tipo? Cioè raddoppiare i limiti di emissioni? Ecco, io vorrei sapere la vostra opinione su questo. Come vi lascia a prendere questa cosa? La considerate una misura giusta perché così difendiamo il settore? E allora perché non lo facciamo per l'Ilva e per tutto il resto e lo facciamo solo per i produttori di auto? Domanda, perché l'auto è fondamentale per i PIL di tutti i paesi. Ho capito, però è la colossale ammissione che ci stiamo tutti prendendo in giro. Almeno questa è la mia opinione. Vi spiego. I particolari del voto ieri al Parlamento europeo, la Commissione Ambiente del Parlamento europeo era in realtà contraria, però non ha ottenuto nell'assemblea piena, nella plenaria, il voto necessario a maggioranza qualificata per vedere passare il suo veto a questa misura. E così le novità sono queste, saranno scaglionate in due tempi. Entro settembre 2017 i produttori delle auto potranno superare per i nuovi prototipi diesel del 110% il tetto precedente degli 80 mg di ossido di azoto. E questo limite dal 1 settembre 2019 varrà per tutti i modelli di auto. Entro il 1 gennaio 2020 il tetto di sforamento, che è appunto è previsto nel 110% rispetto ai limiti che tutti facevano finta di rispettare fino adesso, scendere al 110% a un massimo del 50%. E dal capodanno del 2021 anche questo si estende a tutti i nuovi modelli, non solo ai prototipi. Qual è stata l'opinione della Commissione europea su questo aumento dei limiti? Quello di dire che è giustificato dalla necessità di considerare i tanti dubbi tecnici relativi all'uso dei nuovi dispositivi di misurazione delle emissioni e anche dai limiti tecnici per l'ulteriore miglioramento del rilevamento delle emissioni per le autovetture diesel in condizioni reali di guida, cioè su strada, che è la novità che dovrebbe entrare in vigore dal 2017. Ecco, questo è il nocciolo della decisione assunta dall'Europarlamento. Allora, per farci capire se è un atto di realismo o semplicemente la bandiera bianca su un grande meccanismo collusivo, potrebbe essere anche la somma delle due cose in realtà, abbiamo richiamato il tecnico che nella precedente trasmissione al quale abbiamo chiesto di spiegarci come stavano le cose di fronte al no della California alla Volkswagen. Cioè è con noi di nuovo Enrico De Vita, ingegnere che scrive per automoto.it, è stato collaboratore per molti anni di Quattro Ruote, ma è un esperto vero dei meccanismi attraverso i quali si può davvero migliorare l'efficienza di motori a propulsione termica e di motori diesel e quali sono i limiti veri nei quali si può contenere poi progressivamente con nuova tecnologia e anche a quali costi, perché la nuova tecnologia è molto cara, per abbatterne le emissioni. Enrico De Vita, grazie di essere con noi anche questo pomeriggio. Grazie dell'invito. Come lo considera lei il voto del Parlamento europeo? Dunque, dobbiamo spiegare che cos'è il ciclo di misura che abbiamo utilizzato per 30 anni. Era una procedura che prevedeva velocità molto basse, accelerazioni molto basse, durava 11 km, 1200 secondi, prevedeva punte per pochissimi secondi di 120 all'ora, per il resto erano 4 accelerate fino a 50 all'ora, prima, seconda e terza. Dopodiché queste condizioni nella vita reale delle automobili vengono ripercorse soltanto per il 5-6% della vita dell'auto. Perché? Perché le potenze richieste erano sull'ordine massimo di 23-24 cavalli, erano le potenze che avevano le utilitarie 40 anni fa, la 500, la 4 cavalli, la 2 cavalli, la Renault 4. Praticamente erano cicli nati quando c'erano tante utilitarie con pochissimi cavalli. Allora, oggi una Ferrari, una BMW da 200 cavalli, una semplice utilitaria da 100 cavalli, ce ne tanti, praticamente non si comporta su strada normale se non per pochissimi istanti della sua vita, piccole percentuali, secondo quel ciclo. Nell'89, quando è entrata in funzione la marmitta catalitica, le case erano contrarie all'adozione della marmitta catalitica e contrarie ai limiti. Poi è successo una sorta di miracolo strano del marketing. Le case hanno scoperto che imporre limiti agli inquinanti di volta in volta, ogni 3-4 anni più severi, permetteva loro di riproporre sul mercato modelli precedenti aggiornati nei limiti. Quindi un grande effetto a sostituzione accelerato del parco auto. Accelerato, e poteva andare avanti e sta andando avanti ancora. Certo. Prima ho sentito Oscar Giannino dire che abbiamo un parco auto vetusto. Non è vero. Noi abbiamo il secondo parco d'Europa come giovinezza. Non è affatto vetusto. Sono le case e altri enti che vogliono farlo passare come un parco vecchio, inquinante, insicuro. È il secondo come giovinezza d'Europa. E questo devo ammettere il mio errore. Allora, ho ripetuto un luogo comune infondato e fa bene a correggere. E perché continuano a insistere che è vecchio? Perché dicono che va cambiato. Insomma, a Milano pochi giorni fa ha vietato il traffico alle Euro 3. Le Euro 3 sono auto di 10 anni. Un 2000 di 10 anni fa può essere ancora nuovo, può avere ancora intorno ai 100.000 km, essere una macchina perfetta, ma oggi gli vietiamo di circolare e costringiamo il proprietario a venderla, a rottamarla. Cose pazzesche. Quando l'affidabilità oggi è arrivata a livelli tali per cui 10 anni di vita per un'auto non sono niente o quasi niente. Allora il nuovo ciclo, si è detto dopo lo scandalo Volkswagen, cambiamo il ciclo, perché il ciclo così non è adatto, non rispecchia la realtà del traffico, dell'uso cittadino delle vetture. Mettiamo tante più accelerazioni, mettiamo una velocità più elevata, il nuovo ciclo che entrerà in vigore nel 2017 prevede una punta di 131 km all'ora per 10 secondi, durerà 1800 secondi, qualcuno sarà contento nel dire finalmente ci sono le velocità autostradali, ma in realtà si tratta soltanto di pochissimi secondi, però questo ciclo qui comporta due fattori nuovi. Uno, che le case non sono ancora allenate a, diciamo, preparare i modelli, non usiamo il verbo truccare, preparare, no, preparare così. I loro esemplari in modo che superino brillantemente la prova d'esame. Questo è un ciclo nuovo, non sanno come comportarsi, su cosa agire per avere risultati probanti. Due, gli effetti, gli inquinanti misurati dovranno essere poi rimisurati su strada. Su strada. E su strada le cose cambiano completamente. Quanto cambiano? Prima dicevo il vecchio ciclo rispondeva al 5% della vita dell'auto. Se vediamo come si comportava la vita nel resto di quel 5%, vediamo che gli inquinanti, i consumi, aumentavano anche di 6 volte, 5-6 volte. Questo le case lo sapevano bene. Tutto era però fossilizzato a quelle velocità, a quelle potenze impiegate. Oggi le cose cambiano e cambiano con una misurazione su strada. L'aver concesso il 110%, cioè il raddoppio, è secondo me ancora poco. Le case saranno in difficoltà a superare questi valori qui e a raggiungere questi valori e mantenerli in strada, è ancora poco, però ugualmente lo faranno, lo accetteranno, perché un'altra volta si dà alle case la possibilità di far cambiare auto agli italiani ogni 5-6 anni. Però forse non era il caso, adesso domanda non da tecnico, ma non era il caso di aspettare, vedere i risultati del nuovo ciclo e della prova su strada e fare una riflessione a quel punto ragionevolmente ancorata a degli indicatori più realistici, piuttosto che portarsi avanti per così dire in questo modo? Lei che dice? Io dico che mi sa che complicare così le cose, ecco, sarebbe bastato dire: signori, misuriamo i consumi e gli inquinanti, sì, a 160 all'ora, punto e basta. Ecco, cioè, tutte le vetture a 160 all'ora, io quale voglio comprare? Come sempre trovo nelle parole dell'ingegnere Enrico Di Vitta una misura di ragionevolezza che avrei preferito a questo accrocco politico, devo dire la verità, almeno questa è la mia opinione. Allora, abbiamo, prima di tornare per un'altra domanda Enrico Di Vitta, ci ha raggiunto anche Giorgio Zampetti, che è responsabile scientifico di Legambiente, per sapere come la pensano loro su questo voto dell'Europarlamento sul raddoppio dei limiti delle emissioni. E avete sentito Enrico Di Vitta che dice: guardate che con la parola su strada non è il 110% che consente a in realtà ai produttori di stare nel divario che davvero sarà attestato rispetto a quanto prima usciva da quel ciclo di prova e fatto al banco, affidato ai soli produttori e non senza prova di strada. Sentiamo come la pensa Zampetti tra un minuto però, perché prima l'informazione appunto sulle strade. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.50. Stiamo tentando di spiegare meglio il voto dell'Europarlamento di ieri, che ha raddoppiato, anzi è passato al 110% sulle emissioni per i diesel, mentre l'8 febbraio, proprio quindi tra quattro giorni, il mondo è in attesa di capire che cosa dirà il regolatore federale americano rispetto alle proposte della Volkswagen. Ricordiamo che lì siamo anche in presenza di un meccanismo risarcitorio, qui invece per i clienti Volkswagen c'è un impegno della Volkswagen con le lettere che avete ricevuto a mettervi a posto il device sui vostri motori, ma non c'è un risarcimento. Comunque, la riforma dell'Europarlamento di ieri sull'aumento dei limiti di emissione interviene appunto a gamba tesa, per così dire, mentre si aspettano queste novità. Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legambiente, qual è la vostra opinione al voto di ieri dell'Europarlamento? Ma noi avevamo già fatto appello agli europarlamentari di non votare in favore di questo innalzamento dei limiti. L'avevamo già fatto la settimana scorsa e lo stiamo facendo da tempo, perché abbiamo seguito tutto l'iter anche di questa proposta. E purtroppo il voto di ieri invece ci ha veramente stupito, sorpreso, nel senso che noi abbiamo da una parte una situazione di inquinamento e di sofferenza delle città, che nel nostro paese insomma in questi ultimi giorni è su tutte le cronache. Su questo inquinamento il traffico, il trasporto stradale è comunque uno dei fattori principali di emissione, e noi stiamo andando di fatto con questo nuovo provvedimento ad autorizzare delle emissioni su un inquinante che sono gli ossidi di azoto ancora più alte, addirittura del doppio. Lo troviamo un voto assolutamente anacronistico, perché gli ossidi di azoto sono anche negli ultimi anni uno degli inquinanti che non si è mai abbattuto. Noi se vediamo le emissioni di ossidi di azoto dalle auto, nonostante tutti i provvedimenti che sono stati fatti sui motori, insomma anche quelli di cui parlavate prima, queste emissioni sono rimaste sempre praticamente costanti. Con questo provvedimento di fatto si dice: visto che adesso abbiamo smascherato il sistema con cui voi abbassavate le emissioni. No, veramente noi, la correggo solo per dire che noi qua in Europa non abbiamo smascherato niente, è grazie agli americani che è caduta la maschera. Noi pare quasi che i governi siano pieni di dolore perché è caduta la maschera, se posso dire come sembra a me. Quindi, visto che si è smascherato questo sistema, a questo punto dovendo andare a fare dei test più precisi o con diverse metodologie, è impossibile che rimaniamo entro i limiti, per cui dobbiamo alzarli. Quindi di fatto è un voto che certifica il fatto che per tutti questi anni c'è stata una collusione, no? Il discorso delle emissioni zero eccetera non c'è mai stato. Ma noi abbiamo tirato fuori anche dei dati interessanti su questo, e poi chiudo, la settimana scorsa, in cui abbiamo fatto vedere come di fatto anche nelle stime delle emissioni che vengono fatte dalle ARPA, dagli organi istituzionali in Italia, per esempio su un fattore di emissione dell'Euro 5 di 5 mg su chilometro di emissioni di particolato, le stime delle emissioni di inquinamento vengono fatte su 25 mg su chilometro. Allora questo ci dimostra come anche ufficialmente venga riconosciuto che quei limiti alle emissioni poi di fatto non sono mai rispettati, ma innalzarli vuol dire rinunciare a fare la parte di innovazione e di politiche nuove sulle auto. Esattamente, come spiegavamo prima. Un ascoltatore, mi rivolgo di nuovo all'ingegner Enrico De Vita, dice: ma forse conta anche il fatto che a studiare bene in realtà fisica e chimica ormai sono così pochi che l'evidente incongruenza tra quello che veniva promesso e quello che poi realizzavano davvero come emissioni e consumi, le auto al consumo, sfuggiva agli occhi di tutto. È un po' vero anche questo, Enrico De Vita, che ancora una volta ci imbattiamo in un fattore nel quale, voglio dire, la scientificità o l'antiscientificità di cui siamo impregnati, che si dica, in realtà aiuta questo tipo di enormi meccanismi, no? È così. Ma basti dire che per molti anni molti ministri dell'ambiente, evitiamo i nomi per pietà, hanno chiamato la CO2, l'anidride carbonica, un pericoloso inquinante. L'anidride carbonica è il gas che emettiamo noi respirando, il gas che beviamo nella Coca-Cola, negli champagne, negli spumanti italiani, e non fa male a nessuno, è un gas a effetto serra, ma chiamarlo pericoloso inquinante e confonderla col CO, ossido di carbonio, l'ossido di carbonio, che invece è una roba che uccide, esatto, uccide, ecco, dimostra che la fisica e la chimica non è entrata molto Non è entrata molto, cioè non è molto praticata, per così dire. Esatto. Con cose su cui, senza quegli strumenti, poi passa la qualunque, come si dice in termini non molto scientifici. E anche nell'additare gli NOx come fonte principale della formazione del particolato non è del tutto corretto, anzi è molto fuorviante. Gli NOx sono un prodotto della ossidazione dell'aria. Esatto. E quindi l'aria scaldata ha una parte dell'azoto che si combina con l'ossigeno. E come abbiamo anche già spiegato la volta scorsa, più alta è l'efficienza in realtà della propulsione diesel, esatto, è maggiore, e quindi c'è anche questo da sottolineare, che intuitivamente penserebbe il contrario, invece non è così. Sentiamo qualche rapida telefonata dell'ascoltatore. Andrea da Vicenza, Andrea, prego. Buonasera Giannino. Buonasera. Al di là del fatto che sono perfettamente d'accordo con l'ingegner De Vita, c'è da far notare una cosa, ovvero sia che l'NOx non può essere tolto, altrimenti le macchine non andrebbero in moto, per cui Volkswagen non è in grado di risolvere alla base questo problema. In secondo luogo, siccome tutte le altre compagnie fabbricanti di automobili hanno lo stesso problema, nonostante sia stato mascherato in Europa per Renault, per Fiat e per altre compagnie, il problema di questo provvedimento europeo dipende dal fatto che, come al solito, siamo a trazione germanica e dobbiamo salvare la Volkswagen. Allora la Germania entrerebbe in crisi. Questo mi sembra, vista la componente che rappresenta l'auto, il suo export e così via. Che pensano entrambi, 30 secondi a testa, Enrico De Vita e Giorgio Zampetti, su questa tesi del nostro ascoltatore? È stata una delibera a trazione germanica? De Vita, che dice? Sicuramente. Così come sulla trazione germanica, le altre delibere, esatto, che favoriscono di volta in volta l'industria elettronica tedesca o l'industria del diesel tedesca o l'industria tedesca che inventa le sonde Lambda o inventa i fischi. Esatto, e che soprattutto tecnicamente nelle commissioni, alla Commissione Europea e al Parlamento Europeo, hanno una forza rappresentativa, questa è la forza di rappresentanza di quel sistema. L'alleanza di molti verdi che sposano tutti i dispositivi innovativi. Allora, sentiamo Zampetti cosa dice anche su questo in cauda venenum di Enrico De Vita. Ma rispondendo anche all'ascoltatore, diciamo, sicuramente è stato un voto che risponde alle logiche dell'automobile. E prima si faceva, insomma, degli interventi che raccontavano come con nuovi test sarà molto complicato riuscire a rispettare i limiti. Mm-mm. E bisogna in qualche modo innalzarli, però io uscirei proprio da questa logica, nel senso che da un Parlamento europeo e da un governo di paesi che sono in emergenza smog mi aspetterei dei provvedimenti che mirano alla riduzione delle emissioni, non dei provvedimenti che vanno in favore di alcuni modelli di auto che devono essere venduti. Io aggiungo, Zampetti, però anche misurazioni realistiche e considerazioni realistiche, poi, perché io, per sostenere il mercato, solo per dare poi soldi ai produttori e convincere tutti che è meglio che comprino ogni 3 anni un'auto nuova, prima ci penserei, ecco. Però detto tutto questo, la riflessione resta aperta. Continuate su Radio 24, grazie a De Vita e Zampetti. Appuntamento all'8:15 domani mattina, come tutte le mattine, con Attenti a noi due, con me Alessandro Milan.